Il modo di meditare secondo il metodo di lasciare liberamente. Come una statua nel tempio, pur se l'aspetto è bello e sorridente, non si abbiano concetti mentali, non si pensi. Dopo aver posto il proprio corpo in qualsiasi posizione di beatitudine, si stia senza pensieri, in una condizione che trascende il pensiero. Senza oggetto di pensiero, la realtà essenziale, è proprio in questo modo. Inoltre, si stia liberamente in una condizione di non pensiero, non si interrompa il flusso dei pensieri distraenti che sorgono e si percepiscono, come il lampeggiare dei lampi del cielo che svaniscono automaticamente, così si lascino liberamente i pensieri distraenti che sorgono nella loro stessa condizione. Come la profondità dei vasti oceani, così si stia liberamente nella condizione naturale, priva di movimento. Come le cause secondarie dei pensieri e delle visioni ondeggiano, così attraverso la condizione naturale si raggiunge lo spazio della Dharmata, la legge naturale. Il discorso del vittorioso sul non compiere ciò che è artificiale e corrotto. Se è artificiale, poiché è il Bdud a compiere l'artificio, si stia liberamente nella propria condizione reale. E cioè, come gli uomini sono catturati dalle malattie, si lascino i sei oggetti dei sensi in modo libero. Come gli uomini sono catturati dalle azioni, si lasci stare la mente libera in una condizione naturale di benessere. Come quando un bimbo piccolo guarda la propria madre, anche la visione sia lasciata senza costrizione. Siccome per lo stato di vidya il proprio corpo è come il fardello di un cadavere in un lebbrosario o in altri luoghi di pestilenza, si arrivi ad una condizione priva di passioni. L'essenza della mente sia lasciata nello spazio della grande madre. Qualsiasi pensiero o ricordo, creatore di conoscenza, sorga, si comprenda che la grande madre è la stessa condizione illusoria. La madre non è incatenata alla dimensione dell'illusorio samsara, il ciclo delle reincarnazioni. Come uno stupido che si è riempito lo stomaco, si sciolga completamente la coscienza, si abbandoni il samsara e si ottenga il nirvana. E maho, si risvegli la comprensione dell'assenza di impegno.